Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Virgin Music Milano, cantautore sempre più amato, esce con un nuovo progetto tra disco, duetti, fumetti, un EP con libro che si chiama semplicemente 5. Giovanni Truppi. Avevo degli inediti che erano rimasti fuori da Poesia e Civiltà, ma che volevo molto fare uscire nel ciclo di Poesia e Civiltà, perché li sentivo molto appartenere a quel disco. Cercavo di immaginare un modo bello per farli uscire, e mi sembrava che farli uscire invitando degli ospiti, riprendendo anche delle altre canzoni, potesse essere interessante e bello. Di Poesia e Civiltà si è parlato molto dal punto di vista degli aspetti politici del disco, e in 5 ci sono per lo più canzoni d'amore, e forse mi rendo conto che forse avevo l'esigenza di raccontarmi anche di più anche da questo punto di vista. Benvenuta tra le mie promesse, quelle che non ci sono più e quelle che sono rimaste. Stare con te mi definisce. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Parliamo dei compagni di strada che ti sei scelto. Sono, guarda, se le avessi sentite per la prima volta cantate così, avrei pensato che fossero nate in quel modo i pezzi. È un bellissimo complimento, perché vuol dire che siamo riusciti a incastrarci bene. E sono tutti ovviamente degli artisti che amo molto, non solo i soli artisti che amo molto, ma mi sembravano tutti giusti, e mi piace anche il fatto che sia abbastanza trasversale artisticamente, stilisticamente, questa composizione di persone, e questo anche per me mi racconta molto. Hai scelto nomi importanti però eterogenei. Il mio punto di vista sulla canzone, il modo in cui la vivo, è abbastanza eterogeneo e trasversale, quindi mi piace anche che questo EP racconti questo aspetto. Però a Calcutta hai fatto cantare la canzone più spintacchiona. Sì, ma secondo me, a parte che se l'è scelta pure un po' lui, e poi io credo che lui abbia molta sensualità in quello che scrive e in come lo porge, quindi mi sembra perfetta questa canzone per Edoardo. Quando tu poi però affidi la penna per disegnare un'immagine a un altro, ti devi fidare, perché le immagini sono quelle nella penna, nella mente, negli occhi di un altro. Assolutamente sì, ne stavo chiacchierando prima anche di questa cosa, perché non tanto, forse sono stato un po' incosciente nel momento in cui ho fatto questo passo, nel senso che mi piaceva molto l'idea, quindi quando è arrivata l'ho seguita abbastanza a briglia sciolta, e era molto importante per me che tutti gli artisti coinvolti si sentissero completamente liberi. Devo dire che la prima storia che mi è arrivata, che è mia, che è quella di Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico, che tra l'altro erano tra quelli che conoscevo di più come artisti, mi ha un po' spiazzato, cioè nel senso non è stato immediatamente e solamente piacevole avere un punto di vista altro su una roba mia, però in realtà sono molto contento, però sì, non l'avevo sottovalutato questo aspetto. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Giovanni Truppi. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.